e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, buongiorno e benvenuti. Oggi Deborah mi ha passato il testimone, ci siamo date il cambio, ma domani torneremo in coppia, quindi restate con noi. Oggi comunque abbiamo preparato una trasmissione come sempre ricca di spunti, notizie e curiosità. Non mancheranno i temi di denari e oggi parleremo del nostro rapporto online con le banche, che si fa ormai sempre più intenso, più frequente. Con la nostra ospite vi daremo tanti consigli utili e poi dal virtuale passeremo poi al reale. È arrivata la primavera, meno male, è nell'aria, ma il cambio di stagione si fa sentire anche sulla nostra pelle e ad avvertirlo è anche il nostro naso. Quindi primavera, questione di pelle o questione di naso? 800 24 0024, vi aspettiamo. E allora, precedenza ai denari, partiamo con la nostra rassegna stampa. 6 e 7 aprile verranno presentati dall'ABI, che è l'Associazione Bancaria Italiana, i risultati di un rapporto realizzato in collaborazione con GFK, che delinea la nuova figura del cliente bancario. E allora, dalle anticipazioni emerge che il 95% delle persone ormai compie operazioni bancarie servendosi dei terminal ATM, per intenderci quegli sportelli dove si va a prelevare col bancomat e fare una serie di altre operazioni, mentre il 17% si serve di canali a distanza come i siti internet della banca, le applicazioni su dispositivi mobili o i call center. Allora, questi dati ci servono l'occasione proprio su un piatto d'argento per fare il punto sui consigli da seguire per fare un uso corretto dei servizi bancari online, confrontare le offerte che li promuovono e soprattutto, come piace segnalare noi qua a Cuore Denari, evitare i rischi. Allora, per farci dare tutti questi consigli utili torna con noi una grande amica di Cuore Denari, Anna Vizzari, degli Ufficio Studi Economici Giuridici di Altro Consumo. Buongiorno. Buongiorno. Sono molto contenta che lei torni con me. Allora, come sempre, noi siamo contenti se intervengono i nostri ascoltatori, se ci raccontano le loro storie, se condividono con noi i loro dubbi, se chiedono un aiuto, naturalmente non a me ma alla dottoressa Vizzari. Quindi 800 24 00 24, potete anche mandarci, lo sapete, un WhatsApp al 349 238 6666, lo stesso numero serve per gli SMS, per raccontarci che uso fate dei servizi online offerti dalla vostra banca, se li conoscete, però preferite comunque il rapporto con il signore dello sportello e come mai, se state magari valutando di accettare l'offerta di un conto che prevede una modalità di utilizzo basata proprio sui servizi online e su come vi state orientando, su cosa state basando la vostra scelta, quali variabili prendete in considerazione e quali dubbi avete o vi trattengono. Anna Vizzari, iniziamo chiarendo un po' il campo, perché quando parliamo di banca online parliamo in realtà di tante tipologie diverse di servizi e anche di altrettante opzioni di scelta per il consumatore, che alla fine, ad esempio, quando vuole banalmente aprire un nuovo conto, si trova comunque a decidere qual è il prodotto più giusto per lui per rispondere proprio alle sue esigenze. Certo. Sì, è vero, nel senso che sicuramente si parte dalla tipologia più classica, che è quella del conto tradizionale aperto in banca, che però permette anche l'accesso online, quindi all'home banking, per determinate operazioni, quindi abbinata l'operatività allo sportello insieme all'operatività online. Ci sono poi dei conti unicamente online, quindi in cui tutte le operazioni devono essere fatte non fisicamente, quindi attraverso i canali digitali, ed è quel 17% di cui si parlava prima, nel senso che il 17% dei correntisti italiani oggi utilizza unicamente canali a distanza per fare operazioni bancarie. Quindi è un dato significativo questo, fino a qualche tempo fa questa percentuale sarebbe stata sicuramente circa la metà, mentre i conti di cui parlavo prima sono circa l'80%, ciò significa che oramai i correntisti sono molto abituati a fare insieme alle operazioni tradizionali in banca anche operazioni online, banalmente il bonifico. E poi c'è in abbinata la banca via mobile, nel senso che molto spesso insieme al conto c'è anche la possibilità di scaricare sul proprio telefonino o sul proprio tablet un'app che permette di fare appunto le operazioni classiche, tipo il bonifico, i pagamenti, o per esempio anche di scambiare denaro con altri utenti che hanno la stessa app. Pensiamo per esempio al servizio Giffy che molte banche stanno proponendo in quest'ultimo periodo agli utenti. Quindi è una banca sicuramente online in evoluzione, sempre più digitale e sempre più collegata anche al mobile, quindi allo smartphone che abbiamo tutti in mano, che adesso utilizziamo anche per fare le operazioni bancarie. Allora, intanto mi scrive subito un ascoltatore, adesso via WhatsApp, assolutamente, adesso vado a riprendervela, solo contatti con persone allo sportello. Vi ricordate la Letizietto quando diceva bancario ti amo? Niente online, né bancomat, né carte di credito, per paura più che tutto, ci scrive Giovanni da Mondovì. Allora, che dice? Siamo in quel 20% di correntisti che ancora non hanno l'home banking abbinato al conto tradizionale, quindi comunque una percentuale significativa. Sono quegli utenti che non hanno fiducia nella movimentazione a distanza e che in qualche modo bisogna rassicurare, quindi sicuramente il sistema bancario è chiamato in questo caso a fare un po' anche di educazione, no? E quindi di incentivazione dell'utilizzo del canale a distanza, spiegando quali sono i rischi ma anche quali sono le possibili tutele previste dalle norme e anche soprattutto quello che bisogna tenere in considerazione quando si fa una scelta tra canale tradizionale e canale online, che spesso l'online costa molto meno. Ecco, infatti spesso le opzioni legate ai servizi online vengono associate nella proposta dei contratti offerti ad un maggior risparmio, non si paga il servizio dello sportellista, quindi si paga di meno. È davvero così? Ma quanto, Anna Vizzari, si risparmia davvero? E anche in questo caso a cosa dobbiamo fare attenzione? Rischiamo poi magari di pagare molto cara l'esigenza di andare in filiale quando non possiamo farne a meno? Allora, sicuramente quello che posso dire è che nella nostra anche banca dati che abbiamo online sul nostro sito altoconsumo.it, nelle varie classifiche i conti online sicuramente sono i più economici, quindi si classificano sempre molto bene rispetto ai conti unicamente fisici. E si può risparmiare anche parecchio, perché se consideriamo un profilo medio di correntista, quindi che utilizza il conto corrente per l'accredito e lo stipendio, per pagare le bollette, per fare qualche bonifico, nella nostra classifica, scegliendo il miglior acquisto, si risparmiano mediamente 100 euro rispetto alla media di mercato e si arriva addirittura ai 250 euro rispetto al prodotto più caro del mercato. Quindi sicuramente sono dei prodotti convenienti, bisogna scegliere bene perché ovviamente ci sono tante offerte. E certo. Ed attenzione a quello che si diceva prima, nel senso che se poi si fa qualche operazione allo sportello, banalmente il bonifico, ovviamente il bonifico costa molto di più se fatta allo sportello piuttosto che online. Quindi adesso poi ci dirà quali sono le voci di spesa, anche le commissioni che ci consiglia di verificare, confrontare quando, scegliendo magari di aprire un nuovo conto, ad attrarci proprio un prodotto caratterizzato da molti servizi online. Ma torno un po', e voglio condividerlo con lei, con i nostri ascoltatori, da parte di amici che ci stanno scrivendo un po' il timore. Anche un altro ascoltatore ci scrive da Chieti: la mia banca mi ha più volte proposto l'attivazione delle operazioni online, ma io non ho voluto mai attivare il servizio per paura di furti o intrusioni nei sistemi informatici. Qua bisogna ritornarci, Anna Vizzari. Allora, sì. Che cosa, evidentemente per uno zoccoletto abbastanza duro di persone, insomma, l'online genera qualche timore. Insomma, hai paura che i dati circolino, che la truffa ci sia o che il rischio sia abbastanza alto, proprio perché la comodità, no? Quasi si paga. Allora, dunque, posso rassicurare, nel senso che sicuramente le truffe online basate sull'intercettazione dei dati fatte online sono veramente in percentuale bassissima. Sicuramente i dati vengono a essere invece carpiti attraverso il sistema del phishing, quindi arriva una mail che sembra arrivare dalla banca e che chiede di cliccare sul link per confermare i propri dati, si clicca sul link, si compilano i campi e quindi a quel punto i nostri dati personali vengono a essere utilizzati da altri fraudolentemente, ed in questo modo che appunto avvengono i furti. Ecco, ci fermiamo qui, Anna Vizzari, sì. Quindi messaggio: se vi arriva la mail dalla vostra banca o da aprite l'allegato, no, compilate, non si deve, non mandiamo i nostri dati in giro, restate con me, subito dopo le informazioni sul traffico c'è anche Arianna dalla provincia di Brescia, ma soprattutto Anna Vizzari, pronta a rispondere a tutte le vostre domande e a darci tutti i consigli. A tra poco. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Cuore e denari. Eccomi qua, di nuovo con voi, insieme con Anna Vizzari, nella nostra rassegna stampa di denari. Oggi siamo partiti dalle anticipazioni dei dati ABI che delineano la nuova figura del cliente bancario. Voi che tipo di cliente siete? 800 24 00 24. Anna Vizzari ci stava raccontando come possiamo fare, cosa dobbiamo fare per evitare sorprese. Esatto, quindi mai rispondere a queste mail che stiamo analizzare dalla banca, perché la banca non chiede queste informazioni. Se abbiamo qualche dubbio, noi consigliamo sempre di contattare direttamente la banca ed eventualmente chiedere appunto se c'è bisogno di qualche conferma dei dati. Questo appunto per evitare il problema del phishing. Devo anche dire che adesso la maggior parte delle operazioni bancarie devono essere confermate con dei codici usa e getta, quindi al di là della password di accesso all'home banking c'è sempre la necessità, c'è sempre l'obbligo di confermare le operazioni con un codice usa e getta che dura pochi secondi e che ovviamente, essendo generato da un token che di solito abbiamo in mano, non può essere duplicato da altri. Quindi questo ci dà sicuramente la certezza che la conferma la diamo noi, che l'operazione non può essere fatta da altri. Poi se ci sono dei problemi, ricordiamoci che comunque ci sono delle norme che tutelano il correntista, quindi c'è sempre la possibilità di reclamare ed aspetta la banca a dimostrare che eventualmente quelle operazioni sono state fatte utilizzando i codici d'accesso perché il cliente le ha dimenticate o le ha in qualche modo comunicate a terzi, e deve dimostrarlo in maniera precisa e puntuale. Se ci sono ulteriori problemi anche dopo il reclamo, c'è il ricorso all'arbitro bancario finanziario, che in questi anni si è dimostrato molto pro consumatore, quindi ha risolto tutte le eventuali problematiche che si sono avute in questo campo. Un ascoltatore mi scrive: se sappiamo che a chi ruba il contante i soldi, cioè se ci rubano il contante i soldi li perdiamo, se invece ce li rubano online veniamo rimborsati. Sì, nel senso che, come dicevo prima, la responsabilità massima è di 150 euro, come previsto dalle norme. Quindi in realtà sicuramente se succede online abbiamo tutte delle procedure di blocco della banca e comunque di reclamo che ci tutela, nel contante invece è perso. Quindi ovviamente questo è quello che si dice anche quando si utilizza la carta di credito piuttosto che il contante per i pagamenti. Sicuramente le norme tutelano il consumatore in questo allora caso. E questo ci piace. Arianna, buongiorno dalla provincia di Brescia, e poi abbiamo Giorgio dalla provincia di Milano. Arianna, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solamente portare la mia testimonianza, che ritengo sia positiva. Io sono amministratrice condominiale e utilizzo costantemente l'home banking. Ritengo che sia un servizio, a parte poco costoso per l'esperienza che io ho, e comunque anche sicuro, perché ogni qualvolta si fa un'operazione viene comunicato sul telefonino, no? Che sì. Viene collegato un numero, per cui ogni volta che fai un'operazione tu... Vieni contattato, avvisato. Ritengo invece che il rapporto con il cassiere, diciamo così, di turno che c'è in banca, io personalmente non riesco più ad averlo, perché c'è un turnover veramente impressionante di personale. E questo è vero, anch'io l'altra volta sono andata in banca e ho detto ho sbagliato filiale, non ce n'era più uno uguale. Esatto, e questo è molto brutto, perché io amo andare in banca, amo avere contatti con il personale, purtroppo però dal mio punto di vista e dalla mia esperienza questo non è più possibile. Ecco, ci cambiano i bancari e noi poi rimaniamo un po' così spiazzate. Anna Vizzari, quindi una testimonianza di Arianna che viene raccontata anche dai dati di ABI. Assolutamente, devo anche dire che comunque è in corso una ristrutturazione anche del sistema bancario, nel senso che comunque l'agenzia come la conoscevamo un po' di tempo fa non esiste più, comunque non esisterà più da qui a poco, nel senso che è previsto comunque una riduzione drastica del numero di casse dove fare appunto le operazioni fisiche, e quindi anche il passaggio di queste operazioni per esempio agli ATM, quindi agli sportelli automatici, che adesso sono diventati anche degli ATM evoluti e quindi permettono di fare molte operazioni. Ad esempio il pagamento delle multe, le ricariche telefoniche, i bonifici, il versamento di assegni e di contante direttamente appunto dallo sportello automatico, quindi tutte operazioni che prima si facevano in cassa con il cassiere, che adesso si possono fare da sole attraverso gli ATM evolute. Moltissime banche, le più grosse, hanno investito tanto negli ultimi anni proprio nel passaggio dal cassiere alla cassa, diciamo così, virtuale, allo sportello automatico, magari per esempio prevedendo la presenza di loro collaboratori che spiegavano alle persone come fare le operazioni da sole via sportello. Perché sono davvero semplici o bisogna essere un po' addestrati? Il prelievo è facile. La ricarica telefonica mi sento di ce la faccio. Così come anche accedere alla movimentazione, quindi vedere quali operazioni sono state fatte. Magari è un po' più complicato, per esempio, versare un assegno o versare il contante, perché lì bisogna compilare dei campi, verificare il numero dell'assegno, indicare il del beneficiario. Quindi in realtà bisogna fare un po' più di attenzione, ma sono operazioni che si possono fare. Le banche comunque prevedono sempre una sorta di accompagnamento nei casi un po' di difficoltà. Comunque, per tornare ai temi di Cuore Denari, anche imparare cose nuove aiuta, aiuta anche il cervello, quindi anche se poi il timore di sbagliare quando ci sono di mezzo i soldi e la salute è alto. Giorgio, dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Io pure ho un'esperienza proprio positiva con l'online, nel senso che sono più di cinque anni che utilizzo l'online esclusivamente, ho un conto completamente online con un istituto grandissimo a livello nazionale e ho la possibilità comunque online di far tutto, ovvero sia nel tempo piano piano mi sono anche addomesticato un po' più sul sistema, quindi ho scoperto nuove cose, poi comunque ci sono anche tutti gli help che possono essere utilizzati. Quindi Giorgio, lei ci spinge ad andare dalla sua esperienza in questa direzione, anche perché da quanto ci racconta si è abbastanza anche accompagnati, quindi non le manca l'omino dello sportello? No, non manca, poi io comunque posso fare un'operazione al mese gratuita allo sportello prevista nel costo. Questo dobbiamo verificarlo, Anna, grazie Giorgio. Sì, certo, questa è una delle cose che si può verificare al momento dell'apertura del conto, per esempio nel foglietto informativo. Ci sono un tot di operazioni che possono essere fatte gratuitamente allo sportello, possono essere previste e incluse, diciamo, nel costo complessivo del conto corrente. Quindi appunto in quel caso c'è la possibilità, se dovesse essere necessario fare qualcosa appunto fisicamente in banca, di poterlo fare senza costi aggiuntivi. Comunque quello che io consiglio sempre è di verificare attentamente quali sono per esempio i costi dei bonifici fatti fisicamente in banca rispetto ai bonifici online, che normalmente sono gratuiti o comunque costano molto poco se fatti online, e di verificare una cosa molto importante, vale per tutti i conti correnti, se si fanno più prelievi ATM nel corso dell'anno, e la nostra banca è piccola, cioè non ha molti sportelli, probabilmente è molto bene verificare sul foglietto informativo quanto costa prelevare altrove, su sportelli di altre banche, perché il costo può arrivare anche a 2 euro d'operazione, quindi comunque può incidere molto sul costo complessivo. E poi verificare soprattutto, la prima cosa, il canone periodico che si paga. Quindi ci sono delle banche che fanno per esempio pagare anche 6 euro al mese semplicemente perché appunto il conto corrente è aperto, e quindi ovviamente abbiamo già una cifra fissa di 72 euro per esempio che si pagano indipendentemente dall'utilizzo del conto corrente. Quindi ovviamente è bene sempre fare delle verifiche, magari anche capendo bene come si utilizza il conto corrente. Consiglio a tutti di fare per esempio una visita sul nostro sito altoconsumo.it per fare appunto una verifica di quanto costa il proprio conto corrente, se ci sono offerte migliori sul mercato. Grazie ad Anna Vizzari per queste indicazioni, ci torneremo ancora con Deborah. Buona giornata. Grazie, buona giornata. E buon ascolto del nostro GR, tra poco. State ascoltando un programma offerto da... Grazie alle soluzioni per l'isolamento acustico, da sempre Comfort e Saint-Gobain. Cuore e denari. Primavera d'intorno. Brilla nell'aria e per li campi esulta. Sì, che a mirarla intenerisce il core. Odi greggi belar, muggire armenti e gli altri augelli contenti a gara insieme. Per lo libero ciel fa mille giri, pur festeggiando il lor tempo migliore. Sentite un po' come torno con Leopardi, nominato spesso in questi giorni, soprattutto dopo la cerimonia del Davide Donatello, dove Valeria Bruni Tedeschi, che si è aggiudicata la statuetta come miglior attrice nel film La Passagioia di Virzì, l'avevo visto, mi era piaciuto molto, tra i vari ringraziamenti ha citato proprio anche Leopardi. E quindi abbiamo preso la palla al balzo, ma questa è, come direbbe Deborah, anche un assist per invitarvi a chiamarci all'800 24 00 24 se volete ringraziare qualcuno, oppure se volete lamentarvi della primavera che fa fiorire o rifiorire la vostra pelle o gocciolare il vostro naso. Quindi vi aspetto, 349-238-6666, potete mandarci anche un WhatsApp oppure il nostro numero verde. Respiriamo l'aria, è la primavera. L'aspettiamo tutto l'anno, anche quest'anno finalmente è arrivata, l'aria diventa frizzantina, le giornate per fortuna si allungano, è tempo quindi di dire definitivamente addio all'inverno, anche se gli esperti ci avvertono che sole, clima, mite, nel weekend lasceranno un po' spazio alla pioggia, ma d'altronde lo sappiamo, la primavera è un po' pazzarella. Mi raccomando, se state comunque pensando al cambio di stagioni, non fatelo, perché io lo faccio tutti gli anni e lo faccio sempre troppo presto e poi arriva il raffreddore, ma di naso parleremo dopo. Adesso parliamo della nostra pelle, che in primavera, la pelle di alcune persone in primavera rifiorisce, è particolarmente sensibile. Allora abbiamo invitato un grande esperto in linea con noi, abbiamo il piacere di avere il professor Giuseppe Monfrecola, ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a lei, a chi ci ascolta, grazie. E buona primavera anche a lei. Grazie, qui a Napoli c'è un sole splendido. Anche a Milano c'è la caviamo, ecco, vede, faccio anche la rima, abbiamo aperto con Leopardi. Professore, l'inverno ci spegne un po', non è per sempre per lamentarci, però la primavera invece rischia di accendersi, perché la pelle diventa rossa, prude, si desquama, ricompaiono dei segni che in inverno avevamo un po' tenuto sotto controllo, mascherato. Che succede? Succede che la cute è l'organo di confine per eccellenza, come lei ben capisce, come tutti comprenderanno, quindi le variazioni ambientali, parlo di temperatura, umidità, non so, ventilazione, esposizione al sole, presenza di polveri, di inquinanti, ovviamente può determinare effetti sulla cute, e queste variazioni dipenderanno anche dalla loro intensità e soprattutto dal tipo di pelle, come lei giustamente diceva. Tutto ciò può caratterizzare delle reazioni con rossore, faccio secchezza, quello un pochino di squamette, o anche prurito, che noi chiamiamo vagamente dermatiti. Chiariamo subito che non sono contagiose, questo diciamolo. Ecco questo, però intanto iniziamo ad attivare i nostri ascoltatori ed accendere la loro curiosità proprio con questi tre segnali, rossore, secchezza e una sorta di prurito che alcune persone possono avvertire durante la giornata o magari dopo aver fatto delle, magari non so, dopo aver deterso il viso o a contatto con l'acqua o a contatto con professor Monfrecola, ecco. Con tutto quello che purtroppo noi non vediamo, parlavo prima appunto di inquinanti ambientali, di pollini e di altre cose che possono essere sospese nell'aria. Naturalmente parlavo anche prima del fatto che possono colpire particolari persone, per esempio facciamo nessuna età ne è esente, chiariamolo, e nei bambini spesso si tratta di quella che è la cosiddetta dermatite atopica, che è una malattia molto comune, in cui c'è estrema secchezza da una parte, quindi una barriera, come dire, inefficace, e un'estrema reattività, quindi una cute che si infiamma facilmente. Questo naturalmente va a colpire le zone più esposte, mani, viso, collo, braccia o gambe, dipende un po' dai soggetti. Sì, però poi quello che accade è che grazie a Dio questa malattia, come dire, nel tempo adesso la pubertà si esaurisce un poco, mentre negli adulti invece c'è qualcos'altro. Professore, lei ha parlato di dermatiti e possiamo dire che sono una grande famiglia, sono diverse ma hanno tratti in comune, quello che lei ha sottolineato per primo è che non sono contagioso, ma quali informazioni utili devono sapere i nostri amici che ci stanno ascoltando? Allora, immaginiamo che una persona possa avere in qualche punto del corpo un arrossamento con quelle caratteristiche che abbiamo detto prima, caratterizzato un po' da prurito. Si può pensare a qualche cosa che è arrivato a contatto. Ora, le dermatiti da contatto, che sono molto frequenti, però molto spesso vengono tout court etichettate come dermatiti allergiche. Questo è vero solo in parte, in altre parole penso che molti delle ascoltatrici o degli ascoltatori abbiano avuto arrossamenti per esempio per applicazione di orecchini non di oro, esatto, di nickel, tanto per dire, coloranti di tessuti, qualcuno che lavora nell'edilizia con il cemento, con le gomme, Ora, in questo caso, il dermatologo, osservando le mani o le sedi colpite, caratterizzate appunto da quelle espressioni che abbiamo detto prima, da quelle manifestazioni, può mettere in opera un qualcosa, cioè fare dei test epicutanei, assolutamente non dolorosi, si tratta di cerottini applicati sulla schiena. Dopo 48 ore si va a vedere il risultato e si può individuare la sostanza. Questo è vero solo in parte, attenzione, perché molte dermatiti da contatto non hanno un meccanismo allergico di base. Faccio un esempio: le signore che per motivi vari si lavano spesso le mani o usano dei detersivi senza i guanti hanno delle dermatiti da contatto che noi definiamo da contatto irritante o dermatiti da contatto irritative. Questo significa che non c'è un'allergia, ma c'è soltanto l'aggressione continua di queste mani da parte di questi solventi. Quindi quando lei diceva prima, attenzione, con cosa ci laviamo, se abbiamo pelle secca, se abbiamo una pelle facilmente irritabile, cerchiamo di detergerla con prodotti molto delicati, io dico dedicati a quel tipo di pelle, altrimenti rischiamo di far accentuare un qualche cosa che già di base ci può essere. Anche per l'idratazione dei nostri bambini, soprattutto quando sono piccoli, dobbiamo avere delle attenzioni e delle precauzioni per proteggere questa barriera, questo vestito che ci protegge, che nasce, che cresce che, con noi, che è la nostra pelle. Sì, direi che innanzitutto chiariamoci bene le idee. La nostra pelle sa perfettamente cosa deve fare e quando noi la mettiamo in condizioni di stress bisogna aiutarla. Che cosa intendo? I bambini, certamente idratarli, ma attenzione, cerchiamo di non idratarli o iperidratarli nelle zone ricoperte dal pannolino, perché lei comprenderà che se io iperidrato quelle zone e poi quella zona rimane chiusa, diciamo quasi H24, sì, in un indumento che non lascia troppo traspirare, è come fare un impacco, i pannolini possono essere buoni, ecco, potremmo creare dei problemi piuttosto. Quindi se volete saperne di più, il nostro numero verde è a vostra disposizione, ma col professor Monfreco la vorrei parlare. L'abbiamo citato anche tra i segnali di cui oggi ci occupiamo, di rossore. E parlando di rossore, professore, non possiamo fare a meno di parlare di rosacea. Ho letto che nel mondo colpisce circa 45 milioni di persone, di cui 3 milioni solo in Italia. È una malattia infiammatoria della pelle, colpisce gli uomini, le donne, solitamente in età adulta, dopo i 30 anni, ed è caratterizzata appunto da questo rossore, ma anche dalle papule, da delle pustoline, ed è ben visibile in un'area specifica, nelle aree centrali del viso, quindi guance e naso. Professore, che cosa può aggiungere per completare o precisare l'identikit della persona che soffre di rosacea? Un ritratto preciso. Aree centrofacciali, quindi individuiamo questa zona, naso, guance, zigomi e talvolta il margine palpebrale. Questo è il primo punto essenziale. Persone appunto abbiamo detto che hanno superato i 30 anni, ora che cosa accade? Accade che però questo rossore di base può essere accompagnato da un reticolo di venuzze molto evidenti, noi le chiamiamo tecnicamente teleangiectasia, quindi al rossore di base su queste venuzze, ecco, qualcuno dice una cupe rosa, si accentuano con il sole, con il calore, con le bevande calde, con i cibi fritti o piccanti. Attenzione, sono solo dei fattori scatenanti, non sono la causa di questa malattia che ha una base genetica. Poi le ha fatto cenno a questi piccoli rilievi arrossati, noi li chiamiamo papule, qualche volta c'è una puntina di pus e quindi diventano pustole, è quella che chiamiamo rosacea papulo pustolosa, che un tempo aveva invalidante, attenzione sotto l'aspetto psicologico e relazionale, lo comprenderà, è il viso. E certo, il viso che mostriamo, la nostra carta d'identità, queste pustoline, tanto che un tempo si confondeva con l'acne. Dermatologo non no, la confonde certo, con ma noi sì. No, il dermatologo ci auguriamo che faccia. Sicuramente ci fidiamo e ci affidiamo, poi vediamo se fidarci. Ma la presenza di queste pustoline la rendeva molto simile all'acne, quindi con il vissuto che sappiamo genera l'acne, che è un vissuto abbastanza impattante e pesante. Innanzitutto l'età e anche la localizzazione. Pensiamo che l'acne in genere colpisce la parte delle guance, diciamo non soltanto la parte centrale del viso, la fronte, le guance e qualche volta, attenzione, anche le spalle e il tronco, dove la rosacea non c'è mai. Quindi c'è una grossa differenza che si può già così a grosso modo rilevare. Fare un'autodiagnosi, esatto. Ma per la rosacea invece bisogna affidarsi allo specialista di riferimento che è il dermatologo. Professore, lei ha elencato alcuni fattori di rischio e ha specificato bene che non sono le cause. Quali sono ad oggi i trattamenti disponibili per le persone che si confrontano con questa malattia infiammatoria, di cui abbiamo sottolineato anche l'impatto contatto psicologico. Segna la pelle, ma si riflette anche sul nostro equilibrio, sulla nostra sicurezza, sulla nostra autostima. Non c'è dubbio. Io direi allora, prima cosa, diciamo cosa non fare mai. Non sì. applicare creme cortisoniche. Questo è il primo punto. Perché dopo un apparente miglioramento di poche ore o di pochi giorni la situazione tende a precipitare. Ora abbiamo a disposizione negli ultimi anni una serie di strumenti. Allora, solo rossore? Benissimo. Allora c'è un prodotto che contiene una sostanza, si chiama brimonidina tartrato. Che cosa fa? Agisce sui vasellini facendoli contrarre un po'. Quindi, diciamo, diminuisce quell'effetto vasodilatatorio che c'è. Mi scusi, posso intervenire, professore? Scusa, scusi, quando parliamo di rossore, questa sostanza è utile anche quindi per le persone che hanno quella che noi definiamo cuprose? Attenzione, va bene per il rossore diffuso. Sì. E poi intendiamo le venuzze, le teleangiectasie, lì no, lì bisogna poi utilizzare qualche altra cosa, per esempio dei metodi che possono essere luce laser o luce pulsata, ma sul rossore diffuso, che poi è quello che quel flushing, diciamo quell'improvviso arrossamento che veramente perseguita queste persone in maniera emozionale piuttosto violenta, ecco, questa brimonidina tartrato può dare dei momenti di benessere, perché ovviamente il viso diventa presentabile. Diversa è la situazione se ci sono papule o pustole, e lì sì. entriamo in un altro specifico ancora di più importante. Perché? Perché possiamo agire sia per via esterna applicando prodotti per esempio che contengono ivermectina o metronidazolo, ma attenzione, queste applicazioni vanno fatte per mesi. Insieme a questo ovviamente prodotti che ci proteggono dai raggi solari, prodotti che abbiano un'azione anche coprente o decongestionante, e infine se volessimo agire anche per via interna e qualche volta è necessario, bisogna disporre di un antinfiammatorio che non sia, diciamo, cortisonico, e allora a disposizione abbiamo attualmente un prodotto che contiene doxiciclina. Allora qualcuno mi dice: ma doxiciclina è un antibiotico, allora la malattia è infettiva? Per no. carità, non è questo. La doxiciclina, come gran parte delle cicline, ha un'azione antinfiammatoria, quindi agisce da antinfiammatoria, e sfruttiamo un altro effetto. Allora che cosa si fa? Si dà doxiciclina a basso dosaggio, non al dosaggio antibiotico, e a rilascio controllato. In questa maniera noi riusciamo a contenere l'infiammazione senza però andare ad agire su batteri, quindi non creiamo resistenze, che in questo momento resistenze batteriche, le capirà, sono qualcosa di fondamentale nell'ambito medico. Sì, quindi abbiamo una serie di armi a disposizione, sarà poi il dermatologo a disporre volta per volta e momento per momento quella migliore per il suo paziente. Allora, intanto abbiamo Caterina da Bergamo che mi aspetta un attimo, perché vorrei leggerle anche un messaggio di una mamma che conosciamo, perché ci ha già scritto, con una figlia ad Amsterdam, ce la posso fare, con la rosacea, e ci scrive: è vero che non c'è una cura definitiva, lei sta molto attenta all'alimentazione e prende ogni tanto un antibiotico. Professor Manfrecola, no, ecco, non va bene. Non va allora, bene. La ragazza ha la rosacea perché è geneticamente predisposta ad essa, e quindi la rosacea va non solo trattata ma anche tenuta in mantenimento, quindi guai a fare trattamenti, come dire, sporadici, isolati. Il rischio è, come dire, se ho il diabete e faccio la dieta 3 giorni sì e 4 no, è inutile che sto a fare la dieta. Quindi attenzione, ci può essere una fase di attacco che si fa con quella doxiciclina che dicevo prima, cioè con un antibiotico a basso dosaggio, si usano però le creme per decongestionare, per tenere la situazione sotto controllo, e poi man mano si va avanti per mantenere con meno farmaci possibile. Attenzione, va bene la dieta, ma la dieta, abbiamo detto, è solo un cofattore, cioè non è che la dieta risolve la rosacea, la dieta può servire a evitare che la rosacea appaia di più. Ecco, ho letto con piacere questo messaggio, non solo per dare un'indicazione alla mamma che la trasferirà alla sua ragazza ad Amsterdam, perché, professor Monfrecola, in più di un'occasione, intervenendo in trasmissione, lei ci ha spiegato che, insomma, l'autodiagnosi è già un po' pericolosa, ma soprattutto l'autocura sulla nostra pelle può confondere le tracce, gli indizi, che invece possono essere utili al dermatologo per arrivare ad una diagnosi e quindi quindi suggerire la corretta terapia, che in alcuni casi, come lei ci ha illustrato per la rosacea, può avvalersi di buone offerte terapeutiche. Professore, quindi non pasticciamo sulla pelle, non proviamo, prendo un po' di antibiotico, metto un po' di cortisone, la mia vicina mi ha dato quella cremina che sembra funziona, poi si arriva dal dermatologo che ha un quadro talmente complicato che non se ne esce più. È proprio così, io la ringrazio quello che lei sta rimarcando per i nostri ascoltatori, perché quello che per noi è essenziale è vedere una situazione, diciamo, allo stato basale. Dopodiché, vede, noi abbiamo tanti strumenti, come prima le ho detto. Il vero problema, l'arte medica, se mi passa questo termine, non sta nel conoscere gli strumenti, ma nel sapere precisamente quale adoperare e in quale momento. È solo da questo che poi potrà derivare un successo terapeutico, ovviamente se il paziente condivide e aderisce al trattamento. C'è sempre questo importante momento di condivisione del trattamento, soprattutto per malattie che si dipannano molto avanti nel tempo. In questa maniera noi ci possiamo condurre quella persona per mano verso un momento di, diciamo, guarigione, che però va mantenuto. Questo è tutto, quindi attenzione a non, il fai da te non porta da nessuna parte. Se una persona è andata bene con un prodotto, l'altra potrebbe non avere lo stesso successo. E andiamo a Bergamo. Caterina, buongiorno, lo abbiamo fatto attendere, ma il professor Monfrecola è tutto per lei. Fantastico, buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamata. Buongiorno professore. Io ho avuto una, direi, una storia di dermatite, sì, ho l'allergia al nickel, quindi era legata anche a quello, ma di dermatite secondo me è legata a un fattore psicosomatico, nel senso che mi è capitato in due o tre occasioni importanti della vita in cui avevo dello stress che la dermatite si manifestasse soprattutto in viso, all'interno delle braccia e diventava violenta, ma c'è stato un episodio che è durato purtroppo due anni nei quali un dermatologo mi diceva faccia il bagno con acqua e sale, l'altro mi diceva l'acqua è nemica della dermatite, l'altro mi diceva prende il sole, usi l'amido, non prende il sole e poi la protezione. E allora, adesso come sta Caterina? No, il tema vero è che ho avuto un episodio tremendo su tutto il corpo perché avevo un conflitto con una persona. Quindi lei ci sta portando, Caterina, se ho ben capito, ho a parlare lavoro, di... Esatto, quando ho lavoro l'11 di luglio del 2012, io vi assicuro che il 15 di agosto del 2012 io non avevo più niente. Ecco, allora Caterina, quindi il professor Monfrecola dovrebbe suggerire anche magari a qualche suo paziente di cambiare lavoro, di cambiare fidanzato, perché forse anche lo stress, il dispiacere può essere anche un fattore scatenante o aggravante della situazione, che la pelle racconti quel disagio, quelle preoccupazioni che affollano il nostro cuore, la nostra mente. Professore. Allora, facciamo una grossa distinzione tra ciò che è la causa che determina una malattia e da tutto quello che invece va ad aggravare una malattia. Lo stress viene sempre richiamato come causa, e questo non è vero, di tantissime malattie, non solo dermatologiche. Il problema qual è? Molte di queste malattie hanno un carattere infiammatorio, lo ha detto lei all'inizio quando ha parlato di rosacea. Infiammazione può comportare l'infiammazione può essere aggravata da situazioni di stress che naturalmente noi ne pensiamo soltanto come un fatto mentale, in realtà c'è la liberazione di alcuni mediatori, c'è una sostanza che si chiama sostanza P, tanto per capirci, che è un neurotrasmettitore, il quale arriva nella pelle e può provocare maggiore vasodilatazione o maggiore irritazione. Quindi se io ho già un fenomeno irritativo in atto, lo stress non fa altro che, come dire, è benzina sul fuoco. Certo. Quindi è verissimo questo. Naturalmente pensare che poi tutto si risolva soltanto mettendo da parte lo stress è un po' difficile. D'altra parte il periodo estivo qualche volta con i suoi raggi ultravioletti può esserci anche di grande aiuto, quindi è possibile anche che in estate sia migliorata per altri motivi. Ovviamente la prima cosa da fare è accertare la natura di questa irritazione, altrimenti parliamo del sesso degli angeli. Certo. La signora si giova di quella bellissima località che è Bergamo Alta, ci sono stato proprio domenica scorsa, stupenda la cattedrale. Quindi anche quella aiuta. Venga meno, come lo faccio a dire. Allora, grazie professor Monfrecola. Intanto un messaggio per Claudia che ci manda la storia della sua bambina. Chiediamo a Claudia di scriverci un messaggio, lo inoltreremo al professor Monfrecola, che non potrà sicuramente fare delle diagnosi via mail, ma la situazione, almeno dare delle indicazioni, perché la situazione della bambina di Claudia è un po' complicata, soffre di dermatite atopica dallo scorso anno, è peggiorata molto, professore, la sua pelle è ruvidissima, quest'anno poi si aggiunge raggiunto anche il prurito, la bambina si gratta moltissimo e fino a farsi sanguinare, quindi voleva avere delle indicazioni sul problema bambini. Torneremo, perché molte mamme ci hanno scritto, quindi professor Monfrecola, dopo la rosacea ci occuperemo poi della pelle dei bambini in una prossima puntata. Intanto la ringrazio per la sua chiarezza, per la sua partecipazione a Cuore Denari, e le do appuntamento a presto, non a Bergamo Alta, magari qua in studio in via Monterosa. Bene, arrivederci. Grazie professore, noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sui mercati e poi andiamo a vedere che cosa dice il nostro naso della primavera, che cosa racconta, si irrita, goccia, la starnutisce, si chiude. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Grazie alle soluzioni per l'isolamento acustico, da sempre Comfort e Saint-Gobain. Cuore e denari. Profetico, nonché magnetico. Geometrico ed acrobatico. Sei spesso problematico, ma molto ironico. A volte un po' lunatico. Lo abbiamo anticipato, abbiamo messo il naso in primavera. Però a proposito di naso, vorrei chiedervi, potete usare WhatsApp, potete usare il nostro numero verde, raccontateci un po' la forma del vostro naso, se è grande, se è piccolo, se è appuntito, a patata, alla francese, aquilino, perché la forma potrebbe fare la differenza. Ma allora, prima di spiegarvi perché, e ci affideremo naturalmente a un grande esperto, il dottor Luca Malvezzi, medico chirurgo specialista in otorino laringoiatria all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che è in linea con noi. Buongiorno, dottor Malvezzi. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Eccolo qui, ma prima di raccontarvi perché la forma può fare la differenza, c'è uno studio, cerchiamo di capire che cosa sta facendo il nostro naso in questi giorni in primavera, perché con la primavera molti nasi iniziano a diventare ribelli, a gocciolare, a starnutire, oppure si tappano. Allora noi, un po' come abbiamo fatto con la nostra pelle, quando vediamo un rossore, la desquamazione, diciamo sarà una dermatite. Professor Malvezzi, per il naso a noi piace farci un po' autodiagnosi, d'altronde ciascuno è medico di se stesso, diciamo è la rinite, e aggiungiamo è una rinite allergica, magari sono diventato improvvisamente allergico a qualcosa. Naturalmente parliamo delle persone che non hanno già ricevuto una diagnosi, ma si confrontano con un naso che fa un po' le bizze. Dottor Malvezzi, partiamo da qui. Ma Nicoletta, guardi, ha già detto tante cose interessanti, nel senso che è il punto di partenza, già l'autodiagnosi è qualcosa un pochino inquietante, ma è un qualcosa, è forse già un punto di arrivo, perché il problema vero è che molti pazienti, con molti soggetti con rinite, e qui la rinite allergica è una delle tante forme di riniti, non si accorgono di avere una problematica, non si accorgono di avere una problematica perché hanno respirato male da tanti anni e non sanno che cosa significa respirare bene, quindi misconoscono il problema, ed è un problema questo che può evolvere nel tempo, interessando non solo il naso e i seni paranasali, ma soprattutto interessando anche le basse vie aeree. Quindi il problema si può spostare in modo più importante da un punto di vista clinico sui polmoni, può innescare, può essere il naso e i seni paranasali, possono essere il grilletto per innescare una patologia a livello delle basse vie aeree, latentizzare un asma ad esempio, o far evolvere una semplice raffreddore in una bronchite e in una broncopolmonite in casi più rari. Quindi, allora, questo è un po' lo scenario, la situazione che il nostro naso è costretto a vivere, un po' stimolato e anche trascurato da una scarsa conoscenza. Dottor Malvezzi, noi oggi chi vogliamo catturare tra i nostri ascoltatori? Quale persona, quale profilo di persona vogliamo aiutare e soprattutto informare? Perché noi vogliamo sempre portare delle buone notizie. Si può continuare a stare bene, si può stare meglio o recuperare il benessere. Dottor Malvezzi. Certo, io direi che vogliamo recuperare e intercettare tutti, Il naso va gestito quotidianamente, a prescindere che possa essere malato o no. Noi viviamo in un clima diverso a Milano, ad esempio, rispetto a Roma, rispetto a Palermo, rispetto al clima che c'è alle isole Maldive. Purtroppo. Nelle città, nelle grosse nelle grosse città, soprattutto nelle città inquinate, a prescindere, come dicevo, dalla patologia, si respira parte dell'inquinamento. Lo sporco che entra nel nostro naso innesca una reazione infiammatoria. Allora tutti oggi, nel 2017, dovremmo imparare a lavarci il naso, la mattina e la sera, esattamente come ci si lava i denti. Quindi sono tutto il pubblico. Allora qua ci fermiamo, quindi anche Carmelo si deve lavare il naso, che è qua in regia la parte tecnica, tutti i giorni, mattina e sera, quasi come i nostri denti, che li laviamo più spesso, ci auguriamo, almeno anche dopo i pasti. Dottor Malvezzi, è un consiglio che va bene per grandi, piccoli, per chi soffre di rinite, per chi invece ha un naso perfettamente funzionante? È un consiglio che va bene per tutti, qualsiasi fascia di età, qualsiasi patologia nasale o non ci possa essere, il naso va sempre lavato. Esistono tanti modi diversi di lavarlo. Ci dia i migliori per i nostri nasi delicati. Guardi, il modo più semplice, pratico, economico è la soluzione fisiologica in siringa, senza ago, con una bella siringa, detergersi il naso. Questo è un modo. Se invece che comperarla, che qua siamo a cuore denari, mi preparassi dell'acqua e sale? E non è facile, bisogna avere qualche esperienza chimica, nel senso che se si abbonda troppo col sale si rischia di rendere la soluzione troppo ipertonica e quindi disidratare in un certo modo la mucosa nasale. Quindi in farmacia esistono tantissimi prodotti preconfezionati, vari branding, vari costi diversi, ma l'efficacia è quella del getto che entra nel naso. Lei mi potrebbe dire: perché non usare l'acqua del rubinetto? Bravo, questo proprio volevo chiederle. L'acqua del rubinetto, ad esempio, è un pochino irritante perché ha un pH diverso dalla semplice soluzione fisiologica, contiene dei sali differenti, quindi può risultare irritante il lavaggio con l'acqua, con la semplice acqua del rubinetto, e credo che chiunque di noi abbia provato per sbaglio a inalare col naso un pochino di acqua. Sì, non è piacevole. Esatto, non è piacevole, mentre questo con la soluzione fisiologica. Però, dottor Malvezzi, Luca, perché noi chiediamo sempre ai nostri ascoltatori di raccontarci anche le loro esperienze, mi scrive al 349-238-6666 che ha seguito i consigli che gli aveva dato il suo medico curante di lavarsi quotidianamente il naso, ma dopo 15-20 giorni ha riscontrato che il suo naso era ancora più infiammato, ci scrive il nostro ascoltatore, quasi che questi lavaggi, almeno lui pensa, possano in qualche modo aver scatenato una reazione. È possibile la troppa pulizia del naso? È possibile, non è escluso quello che ci dice il nostro radioascoltatore, dipende con che cosa ha lavato il naso. In commercio esistono delle acque fisiologiche additivate con dei prodotti solfurei, con dei prodotti termali. In alcuni casi questi prodotti termali possono essere irritanti per il nostro naso. E quindi non è escluso che possa essere successa una situazione di questo genere. È chiaro, un'altra delle situazioni che spesso si incontrano clinicamente è il paziente che riferisce un sanguinamento nasale dopo aver utilizzato, dopo essersi lavato il naso lungamente. Può capitare se disidrata troppo il naso, ad esempio, componendosi da sola la soluzione con acqua e sale. Può capitare banalmente quando c'è una deviazione del setto nasale, quando il lavaggio viene eseguito in modo non proprio corretto. Allora, il nostro naso è fatto per respirare, noi ci auguriamo che respiri anche bene, da una narice e anche dall'altra. Ci scrive un'ascoltatrice, ho un naso importante, è simile a quello di Gérard Depardieu, sono stata operata da ragazza per dei polipi e da allora respiro bene, anche se sento che una narice respira meglio dell'altra. Allora, questo messaggio che non è firmato di una nostra ascoltatrice via WhatsApp, dottor Malvezzi, ci dà numerosi spunti. Il primo, numerosissimi. In due righe lei ci potrebbe scrivere un trattato, ma soprattutto dare dei consigli molto utili. Quindi, se vi sentite il naso che respira bene da una narice e non dall'altra, il naso che si tappa, se il vostro naso gocciola, starnutisce, se il vostro naso in qualche modo non vi permette di così catturare tutta bene tutto quel quei profumi, quegli aromi, quelle cose che sono intorno a noi, che sono anche un po' il bello della nostra vita, chiamateci, perché subito dopo le informazioni sul traffico il dottor Malvezzi ha delle indicazioni con voi. Partiremo dalle 4P, dottor Malvezzi? Partiamo dalle 4P. Andiamo. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Cuore e denari. Monsieur, il vostro naso è alquanto grande. Alquanto? Visto? È tutto qui. Beh, naturalmente. Oh no, giovane signore, voi mi deludete. Avreste potuto dire ben altre cose. Perché sprecare questa opportunità? Per esempio questo. Come fate a bere con quel naso? Scommetto che avete un boccale su misura. Descrittivo. Ma è una roba. Descriveteci il vostro naso, anche la forma dice la sua, ma soprattutto raccontateci come si comporta il vostro naso in primavera e in modo particolare in alcuni momenti della giornata. In linea con noi abbiamo il dottor Luca Malvezzi, pronto a darci delle indicazioni. Partiamo dal messaggio della nostra ascoltatrice che segnala che è stata la forma del suo naso un po' importante, come quello di Gérard Depardieu. Ha avuto i polipi da ragazza, è stata operata, però ha una narice che respira meglio dell'altra, il segno che una fa meno il suo lavoro. Dottor Malvezzi, tutto questo ci dà uno straordinario assist, come dice Deborah, per trattare alcuni dei temi che le stanno particolarmente a cuore, dove ci sono degli avanzamenti, è cambiato qualche cosa. Dottor Malvezzi. Nicoletta, allora intanto... Bello anche lo spunto letterario, il naso è stato oggetto di tanti spunti letterari, anche Vitangelo Moscarda aveva il naso che pendeva a destra in Uno Nessuno Centomila, e questo ha indotto in lui una crisi spirituale profonda. Detto questo, la nostra ascoltatrice dice tante cose interessanti. La forma del naso non è necessariamente correlata alla buona o cattiva respirazione. Si può avere un naso enorme, ma all'interno il naso può essere molto molto piccolo e viceversa. Lei ha detto prima il naso serve per respirare, mica vero. Il naso certo sì serve per respirare, ma il naso è una piccola parte della nostra faccia, il naso deve essere considerato intanto insieme ai segni paranasali, primo, e secondo il naso è la parte visibile dei nostri polmoni, il naso fa da filtro, umidifica l'aria, è importante nella regolazione di quella che si chiama la clearance mucociliare, cioè la produzione di muco e il ruolo che la mucosa ha nel pulire l'aria. Il muco, quando è in cattive condizioni, perché il naso, perché i segni paranasali sono in cattive condizioni, mettono in cattive condizioni anche i polmoni. Cioè il naso e i segni paranasali servono per regolare la funzione polmonare, per l'omeostasi polmonare, come dicevamo prima. Quindi tante cose funzioni, questa piccola proboscitina. Non esiste mai una simmetria, non c'è mai una narice destra che respira esattamente come quella di sinistra. E poi la nostra ascoltatrice ha parlato di polipi nasali. Esatto. E ha parlato di chirurgia e abbiamo parlato di rinite. Oggi queste cose, tutte queste patologie, a differenza del passato, vengono studiate in modo molto più dettagliato. Per tutte queste patologie, che possono essere anche la stessa patologia in momenti diversi della vita di un soggetto, per tutte queste patologie, fino a qualche tempo fa e oggi ancora purtroppo, in tanti centri esiste un trattamento sistematico, medico, basato sull'utilizzo di cortisoni, chirurgico. A volte nella poliposi nasale la chirurgia è ripetitiva, tanti pazienti vengono operati tante e tante volte nella loro vita. Oggi non si deve più arrivare a questo, oggi il paziente deve essere studiato da un board multidisciplinare, non si può pensare che l'otorino possa gestire le vie aeree che sono alte e basse, ma che devono essere considerate unite da solo, deve collaborare con l'immunologo, con l'allergologo, con lo pneumologo. Oggi il paziente deve essere studiato e la patologia, mi perdoni un pochino la definizione, deve essere fenotipizzata, cioè bisogna riconoscere quel tipo particolare di patologia per garantire a quel paziente un trattamento specifico. Si parlerà sempre di più in futuro di medicina 4P, cioè una medicina personalizzata, una medicina predittiva, una medicina preventiva, una medicina partecipatoria, da parte del paziente, che ha un ruolo, quello di garantire un trattamento terapeutico, farmacologico o chirurgico sempre più preciso. Ho citato il cortisone. Il cortisone è uno dei farmaci che viene più frequentemente somministrato al paziente con rinite allergica, con rinosinusite cronica, senza o con poliposi nasale. Il cortisone, facciamo un parallelismo con gli antibiotici, è un antinfiammatorio a largo spettro, cioè significa che agisce in generale sull'infiammazione. Oggi esiste qualcosa di nuovo da un punto di vista farmacologico, esistono i cosiddetti biologici, quei farmaci che agiscono invece in modo selettivo sull'infiammazione, cioè agiscono su parti specifiche dell'infiammazione e che possono essere particolarmente adatti in alcuni pazienti, ma quando? Quando noi riconosciamo la patologia di questi pazienti e riconosciamo qual è la parte preponderante dell'infiammazione, il ruolo dell'infiammazione è fondamentale in tutte le patologie, qual è quella parte dell'infiammazione che ci interessa andare selettivamente a bloccare. Quindi adesso siete in grado di fare delle diagnosi più accurate e quindi di avere delle terapie mirate che riescono a farci affrontare meglio il problema. Lo sforzo di oggi e del futuro è questo, quello di studiare sempre di più il paziente e offrirgli una terapia sempre più personalizzata. E guardi Nicoletta, guardate radiospettatori, che nei prossimi anni la stima di spesa sanitaria nazionale a livello mondiale per la patologia infiammatoria è altissima, vicina a quella della spesa per le patologie oncologiche, quindi stiamo trattando un argomento fondamentale che come sempre a cuore denari, dottor Malvezzi. Allora, c'è Vasco che ci chiama da Verona. Vasco. Buongiorno. Buongiorno Vasco. Allora? Telegraficamente, io ho il naso che cola sempre, ma specialmente quando mangio. Ed è da sempre che mi succede così. Piccolino mi sono state tolte le adenoidi. Chiuso. Telegrafico. Mi piace Vasco. Telegrafico. Dottor Malvezzi, anche noi abbiamo pochi minuti perché devo farle poi due domande degli sms. Sì. Il naso che piange, insomma. Il naso che cola può essere l'espressione di una patologia, certamente può essere l'espressione, in questo caso anche ci sono alcuni, senza tirare in causa l'allergia alimentare o l'intolleranza alimentare, ci sono dei cibi dal vino rosso, i cibi colorati, staminosimili, che possono, quando assunti, scatenare una reazione di rinorrea, di perdita di muco a livello nasale, sì certo. Come tutte le cose, come ci siamo detti finora, poi insomma Vasco può avere un'indicazione, adesso gli otorini la sanno lunga. Quanto meno ad essere indagato. Ecco. Allora, è possibile che un continuo raspino in gola per eliminare il catarro dipenda dal naso, che io sento sempre un po' intasato, ci scrive un altro ascoltatore. Bellissima domanda. Lo so, siamo una bravi. Delle cause, sì, molto. Una delle cause più meno considerate come possibile patologia, espressione di una patologia nasale e sulle basse vie aeree, la tosse, il ranteghin, come si dice, il bruciore in gola, quello sì può essere scatenato da muco che cola dietro il nostro naso, a livello palatale. Esiste anche una sindrome, post nasal drip syndrome, cioè la sindrome da scolo di muco posteriore, quella può essere una causa e quella va indagata. Usare olio balsamico, leggo perché sono arrivati tantissimi messaggi e richieste, ma scriveteci, usare olio balsamico, dottor Malvezzi, sotto il naso per respirare meglio quando è chiuso, può fare male a lungo andare? La medicina naturale quando non si trattano patologie importanti, va bene l'olio balsamico, vanno bene i fumenti con lo zenzero, può essere usata la curcuma, va benissimo il bagno turco. Va tutto benissimo, i fumenti, tutto quello che vogliamo. Ma quando il problema persiste, diventa più serio, bisogna andare dal dottor. È quello il problema. Dottor Malvezzi, grazie per essere stato con noi. Ci salutiamo, ma torneremo insieme. Intanto torneremo domani con Deborah qua alle 10:30. Vi aspettiamo.